giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Bruxelles molto dura sulla legge di stabilità. Secondo la Commissione rischiamo di sforare sul deficit, non ci sono margini per gli investimenti. Nessuna bocciatura, rischi previsti, replica il Ministero dell'Economia in corso alla conferenza stampa di Saccomanni. Intercettazione di Vendola con Archinà, ex responsabile relazioni istituzionali dell'Ilva, ora agli arresti e siamo al 2009. Faccia sapere ai Riva che non mi sono defilato, dice il presidente pugliese. Il ministro Cancellieri torna nell'occhio del ciclone dopo la diffusione di nuovi tabulati. Cuperlo, valuti con Letta se andare avanti. Nel PDL si cerca ancora la mediazione, ma le posizioni restano distanti. Domani il Consiglio nazionale tra molte incertezze. Tohir è il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio è arrivato poco fa, in corso alla conferenza stampa con Moratti. Questa sera il capoluogo lombardo ospita anche la Germania per l'amichevole con l'Italia. E dunque apriamo andando a Bruxelles e parlando di legge di stabilità. In corso la conferenza stampa di Fabrizio Saccomanni, ministro dell'Economia, alla quale abbiamo sottratto momentaneamente Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore, appunto da Bruxelles, per farci raccontare soprattutto, e poi verremo a Saccomanni e vi faremo anche ascoltare la voce. Beda, che cosa dice la Commissione Europea sulla nostra legge di stabilità? Buongiorno. Buongiorno. Ma la Commissione Europea ha dato un giudizio abbastanza misto sulla legge di stabilità. Prima di tutto l'ha accettata, non è stata bocciata, cosa che sarebbe potuta avvenire perché secondo le nuove regole del patto di stabilità e di crescita la Commissione avrebbe potuto, se insoddisfatta, rimandare il progetto di bilancio a Roma per essere riscritto da capo a piedi. Così non è stato, però la Commissione ha puntato il dito su alcune particolarità di questa legge di bilancio, prima di tutto mettendo l'accento sul fatto che la legge come tale, nonostante possa permettere al Paese di avere un deficit sotto al 3% l'anno prossimo, non consente al Paese di ridurre il debito pubblico come invece richiesto dalle nuove regole. Ecco, credo che sia la particolarità principale di questo giudizio della Commissione. La Commissione sottolinea proprio l'aspetto del debito più che l'aspetto del deficit. L'Italia con la manovra economica che è oggi in discussione in Parlamento non fa abbastanza per ridurre il debito pubblico. Allora Beda, io ti ringrazio e ti faccio tornare naturalmente al lavoro, al tuo lavoro principale, poi che è quello per il Sole 24 Ore. E del resto è proprio su questo che si va a concentrare la replica del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che magari ci aggiorna anche su come stanno andando le cose proprio dal lato della legge di stabilità in Italia, dal punto di vista parlamentare, e anche il Consiglio dei Ministri che si svolge questa mattina con dei provvedimenti collegati alla manovra. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora innanzitutto diciamo che il governo prima attraverso una nota del Ministero dell'Economia, poi attraverso appunto un intervento dello stesso ministro Saccomanni da Bruxelles, è intervenuto sui rilievi mossi dall'Europa sulla legge di stabilità. Una replica secca in cui si dice che la Commissione Europea non tiene conto di importanti provvedimenti annunciati dal governo, anche se non formalmente inseriti nella legge di stabilità e già in fase di attuazione. Nessuna bocciatura, nessuna brutta storia, precisa il ministro Saccomanni, che appunto sta tenendo in questi minuti una conferenza stampa a Bruxelles. Allora sentiamo la sua voce. Questo non significa che l'Italia non potrà avvalersi della clausola di investimenti, se come del resto noi stessi abbiamo auspicato nella spending review, ma anche in altre misure, ci saranno appunto degli elementi che consentiranno di ridurre il peso del debito e di essere in linea con la clausola di aggiustamento strutturale al parametro del debito. Il deficit non è in questione. Ecco, così Saccomanni. Intanto il governo questa mattina si è riunito nel Consiglio dei Ministri, terminato in questo istante è arrivata la notizia del via libera al collegato ambiente, un intervento a tutto campo sui temi ambientali con misure a tutela del mare da incidenti che coinvolgano carichi pericolosi, misure per agevolare la rimozione di immobili abusivi in aree elevate a rischio idrogeologico. Sul tavolo c'è anche il DDL sviluppo collegato sempre alla legge di stabilità con semplificazioni per le concessioni concessioni di visti d'ingresso, salta però dal DDL sviluppo il taglio degli oneri sulle energie rinnovabili. A te, Simone. Grazie ad Alessandra Schepisi. Intanto ci sono tre vicende politiche che animano la situazione in questo momento. La prima, quella più recente, quella che riguarda Niki Vendola. Il Fatto Quotidiano diffonde, e per primo in realtà poi si è diffusa a più ampio raggio, un'intercettazione tra il presidente pugliese e Girolamo Archinà, ex responsabile delle relazioni istituzionali dell'ILVA. Archinà in carcere dal novembre 2012, la telefonata da dire del 2009. I due parlano di un episodio nel quale il giornalista Luigi Abbate si avvicina ad Emilio Riva per fargli una domanda sui tumori a Taranto e Archinà strappa letteralmente il microfono dalle mani del giornalista. Ascoltiamo dunque la telefonata tra i due. Complimenti, no, io e il mio capo di gabinetto siamo stati un quarto d'ora a ridere perché è stata una scena fantastica. Cioè, serve almeno. Sì, no, ma poi quella faccia di provocatore, ma vabbè. Comunque. Ah, per me che le ho fatte veramente le battaglie per la difesa della vita e della salute. Fermo restando tutto, dobbiamo vederci, dobbiamo certo. Dare garanzie. Poi volevo dirglielo perché poteva chiamare Riva e dirgli che il presidente non si è difilato. Vabbè, no, ma ne eravamo assolutamente certi. L'altro caso è quello che riguarda il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, sulla quale sono uscite nuove notizie in merito ai rapporti con Ligresti e alle telefonate. Sentiamo. Ho ricevuto una telefonata da Antonino Ligresti, che conosco da molti anni. Mi ha rappresentato la preoccupazione per lo stato di salute della nipote Giulia. Così Anna Maria Cancellieri aveva ricostruito la conversazione avuta il 19 agosto con Antonino. I tabulati telefonici però raccontano un'altra verità. Fu il cellulare del ministro a chiamare il numero di Ligresti, che a sua volta l'aveva cercata inutilmente nei giorni precedenti. E ancora, dai tabulati delle chiamate di Antonino Ligresti spunta anche un altro numero, quello del marito del ministro, Sebastiano Peluso. Per 6 volte il suo cellulare parlò con quello di Ligresti, la maggior parte delle chiamate tra fine luglio e la prima settimana di agosto. Mercoledì la Camera sarà chiamata a votare la mozione di sfiducia presentata dai grillini, che alla luce delle nuove rivelazioni potrebbe ora far breccia tra diversi settori del PD. Oltre alle già esplicitate posizioni di Renzi e dell'altro candidato alle primarie Civati, il capogruppo Roberto Speranza ha convocato un'assemblea che si preannuncia infuocata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, tra l'altro proprio Pippo Civati sarà ospite tra poco di Effetto Giorno. Parla anche Gianni Cooper, lo dice: penso che alla luce di quello che sta accadendo sia utile che il ministro stesso con il presidente del Consiglio verifichi se ci sono ancora le condizioni per andare avanti con serenità nel suo ruolo di guarda sigilli. Il terzo caso politico di questa giornata è sempre lo stesso, quello che va avanti in realtà da qualche giorno, ed è la situazione nel PDL. Elisabetta Fiorito per gli aggiornamenti, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, ancora non si sa se il Consiglio nazionale sancirà la nascita di Forza Italia oppure la scissione tra lealisti e filo governativi di quello che sarà da domani l'ex PDL. Perché Simone, l'ultimo avvertimento è quello di Fabrizio Cicchitto: prima di decidere se andare al Consiglio nazionale voglio capire qual è la linea politica e la collocazione. Per noi il centrodestra è collocato al centro senza estremismi. Se deve entrare in una nuova formazione politica chiedo le regole, altrimenti non andrò. Più ottimista invece Raffaella Fitto, ricordiamo lealista, che parla di una festa di democrazia e non di uno strappo. Spero in un Consiglio nazionale che sarà un dibattito utile. E dice poi: non posso immaginare che domani ci possa essere un'assenza o un contrasto. Diversi anche i toni che usa su Angelino Alfano. Ricordiamo, nei giorni scorsi aveva detto che voleva fare la festa a Berlusconi. Fitto si è impegnato, dice Alfano, per questo partito in questi anni, quindi non crede ad una rottura. Ricordiamo però le parole amare di Silvio Berlusconi: avessi il passaporto me ne andrei ad Antigua, proprio per descrivere la situazione interna al PDL. E secondo alcune indiscrezioni, se i cosiddetti filo governativi non si dovessero presentare al Consiglio nazionale di domani, ci sarebbe già un progetto pronto, un progetto di un nuovo partito che si chiamerebbe Italia Popolare. Queste quindi le ultime indiscrezioni, Simone. Grazie, grazie Elisabetta Fiorito. Allora, abbiamo parlato in apertura della legge di stabilità e del giudizio dell'Europa, ma naturalmente c'è anche il giudizio duro, come sapete, dei sindacati e non solo. Sindacati oggi in piazza, così come sono in piazza gli studenti. Proteste in tutta Italia contro la legge stabilità, manifestazioni indette da CGIL, CISL e UIL sotto una pioggia battente, circa 2.000 lavoratori hanno ascoltato il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso. Se non si risponde al lavoro, questo paese non ce la fa, e invece noi vogliamo che questo paese ce la faccia, perché noi vorremmo poter guardare negli occhi i ragazzi e le ragazze di questo paese che hanno già pronta la valigia per andarsene. Le tasse, è intervenuto il leader della CISL, Raffaele Bonanni, saranno la tomba dell'economia oltre che della democrazia in Italia. Alla giornata di protesta hanno aderito anche gli studenti, circa 300, e gli attivisti dei centri sociali. Sotto la pioggia si sono radunati in piazza Cairoli per sfilare nelle vie del centro. Alcuni studenti e militanti di centri sociali si sono staccati poi dal corteo per fare irruzione nella sede milanese di Google. Proteste anche a Torino, Palermo, Perugia, Napoli e Bari. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. Prima di passare all'ampia pagina di calcio che tiene dentro tanto gli ultimi sviluppi dell'Inter dal punto di vista societario quanto Italia-Germania, torniamo sulla cronaca italiana. È stato catturato l'ex pentito, l'ex collaboratore di giustizia ed ex boss Antonino Lo Giudice, Raffaella Calandra. Dunque, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Era sparito 5 mesi fa tra molti misteri e ancora più veleni. L'hanno catturato oggi proprio nella sua città e quando si è trovato di fronte gli agenti ha detto: me l'aspettavo che sareste arrivati. Antonino Lo Giudice, uno dei più importanti e poi controversi pentiti di 'Ndrangheta, è stato catturato a casa dei fratelli in un quartiere periferico di Reggio Calabria ed è stato proprio il comportamento anomalo dei familiari, per nulla preoccupati della sua scomparsa e all'improvviso lontano da ogni telefono, ad insospettire gli inquirenti e a condurli fino all'ex boss, colui che si era autoaccusato tra l'altro degli attentati contro i magistrati regini degli anni scorsi, come il bazooka indirizzato all'allora procuratore capo Giuseppe Pignatone. Quando sparì da Macerata, dove si trovava sotto protezione, fece arrivare un video e due memoriali del 7 giugno e del 29 agosto, in cui soprattutto nel secondo ritrattava quanto detto ed accusava di pressioni gli inquirenti regini e il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Gianfranco Donadio. Più tardi dovrebbe essere interrogato dal procuratore Cafiero Di Rao. 3 le ordinanze a suo carico per l'evasione dei domiciliari, per le collocazioni degli ardigni, perché boss di 'Ndrangheta, e dai suoi altri 2 fascicoli sono stati aperti dopo i suoi memoriali, uno sulle sue accuse ai magistrati, un altro in cui gli stessi magistrati sono considerati vittima di calunnia da parte di Antonino Lo Giudice. Un intrigo dunque di misteri e veleni come molte delle storie di 'Ndrangheta. E per ora è tutto. E andiamo, prima appunto di parlare di calcio, ad una notizia battuta da poco dalle agenzie. Sono dei numeri che sono forniti da Legambiente che riguardano la terra dei fuochi, quell'area compresa tra Napoli e Caserta dove per anni la camorra sversò rifiuti tossici. Ebbene, secondo Legambiente, nel corso di 22 anni sono stati sversati circa 10 milioni di tonnellate di veleni. Questo il dato, censite 82 inchieste per traffico di rifiuti, 915 ordinanze di custodia cautelare, 1.806 denunce e 443 aziende coinvolte. Come sempre, ad effetto giorno, torneremo ad occuparcene. A questo punto inizieremo dalla settimana prossima. Saluto invece il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, che è venuto qua in studio. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Che cosa, di cosa parliamo con te? Del fatto che sei stato adesso alla conferenza stampa di Tohir e Moratti, quindi l'Inter ha un nuovo presidente e anche un nuovo presidente onorario. Sì, ha 2 presidenti, il nuovo presidente dell'Inter, Eric Tohir, Massimo Moratti diventa presidente onorario, come era un po' nell'aria già da tempo, anche se appunto si parlava in realtà poi di una volontà di Tohir di lasciare a Massimo Moratti la presidenza, ma una serie di ragioni, diciamo, pratiche e anche giuridiche, perché la presidenza ha delle responsabilità a cui devono corrispondere dei poteri pratici che in questo caso invece vanno tutti a Tohir, la nuova cordata indonesiana, i nuovi proprietari che oggi appunto formalmente diventano proprietari del 70% dell'Inter. Questo dal punto di vista societario, dal punto di vista banalmente di campagna acquisti, di vita futura, guarda, dell'Inter, che cosa si possono aspettare? Ha detto qualcosa questo Toier? Lo scopriremo tra poco, perché tra l'altro in questo luogo che è a 100 metri dalla sede del Sole, che oggi è la capitale del calcio italiano, perché all'Hotel Meliá è in ritiro la nazionale che stasera gioca con la Germania, e c'è stata appunto l'assemblea dell'Inter, tra un po' inizierà il CDA che dovrà disporre l'aumento di capitale. Ora, l'aumento di capitale dovrebbe essere intorno ai 30-40 milioni per ripristinare l'equilibrio dei conti eroso dall'ultima perdita di 80 milioni nel bilancio 2013. Si è sparsa la voce che potrebbe essere più ampio l'aumento di capitale, quindi la somma in surplus rispetto a questi 40-50 milioni, potrebbero essere anche 100 milioni, sarebbe già quella destinata alla campagna di rafforzamento di gennaio, quindi un bel regalo per i tifosi dell'Inter. Speriamo in bene per loro. Si diceva della nazionale che gioca questa sera, a Milano piove a dirotto, ma che campo e che serata si troveranno Dario Ricci, Italia e Germania? Sicuramente una serata bagnata, Simone, anche se poi l'erba di ultima generazione impiantata ormai da tempo a San Siro dovrebbe tenere al meglio. Prevendita tutto sommato fiacca per un'Italia-Germania, visto che ieri gli italiani staccati erano 28.000, considerando poi che dovrebbe essere una partita aperta soprattutto ai bambini delle scuole calcio, così come ha voluto la federazione. Sul campo, attesa sempre per lui, per Super Mario Balotelli, che farà coppia in attacco con Osvaldo, visto che Pepito Rossi, il capocannoniere del campionato, 11 gol lo ricordiamo, è stato bloccato già a Coverciano da un'influenza, e appunto non è questa la serata giusta per rischiarlo in questo caso. In panchina ci sarà anche De Rossi, fermato da una botta all'alluce, tutte e due dovrebbero essere in campo lunedì nell'altra amichevole di questo ciclo azzurro a Londra contro i campioni d'Africa della Nigeria. Stasera intanto alle 20:45 c'è la Germania, Simone sfida sempre da 5 stelle, dal 95 pensa ai tedeschi non ci battono, da 88 anni siamo imbattuti a San Siro, quindi ci sono le premesse per una grande Italia, quella che chiede Prandelli, niente alibi, ha detto il CT, ho visto gli azzurri bene, voglio una grande Italia, stiamo a vedere. E speriamo, grazie Dario, poi ce la racconterai stasera naturalmente nei nostri giornali radio. Vi ricordo anche che tra l'altro in tutti i convocati ovviamente vi ha parlato Marco Bellinazzo dell'appuntamento delle 2:30, importante dal punto di vista societario per l'Inter, per capire quanti quattrini entreranno molto banalmente e che cosa si potrà fare a gennaio in termini di campagna acquisti. Bene, se ne tornerà a parlare in tutti i convocati più avanti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Bruxelles è molto dura sulla legge di stabilità. Secondo la Commissione rischiamo di sforare sul deficit e non ci sono margini per gli investimenti, nessuna bocciatura, i rischi sono previsti, replica il Ministero dell'Economia. Intercettazione di Vendola con Archinà, ex responsabile relazioni istituzionali dell'Ilva, ora agli arresti. Faccia sapere ai Riva che non mi sono defilato, dice il presidente pugliese. Il ministro Cancellieri torna nell'occhio del ciclone dopo la diffusione di nuovi tabulati. Cooper lo dice, valuti con Letta se andare avanti. Nel PDL si cerca ancora la mediazione, ma le posizioni restano distanti. Domani il Consiglio nazionale tra molte incertezze. Arriva la svolta dell'Inter, è Tohir il presidente e Massimo Moratti sarà il presidente onorario. Questo pomeriggio consiglio d'amministrazione per la ricapitalizzazione dell'azienda. Tra l'altro questa sera il capoluogo lombardo ospita anche la Germania per l'amichevole con l'Italia. Ed eccoci qua, dunque vogliamo innanzitutto affrontare la questione di Anna Maria Cancellieri, del ministro della giustizia. Sono usciti, come sapete, dei nuovi tabulati che indicano nuove parecchie telefonate, diciamo così, tra Cancellieri e la famiglia Ligresti. Emerge tra le altre cose anche che Antonino Ligresti, la Cancellieri ha riferito di aver ricevuto una telefonata da Antonino Ligresti, in realtà risulta che Ligresti l'ha cercata e poi lei lo ha richiamato, quindi un'inesattezza, se qualcuno la chiama una bugia, alcuni dicono un'inesattezza. Questa questione sta creando particolare tensione da quel che è dato di vedere. All'interno del Partito Democratico, come sapete, mercoledì si vota la mozione di sfiducia proposta dal Movimento 5 Stelle. Saluto Pippo Civati, che è tra i candidati alla segreteria del PD nelle primarie. Buongiorno, benvenuto. Pronto? Buongiorno a voi. Buongiorno, bentornato, anzi, più che benvenuto. Allora, come la vede lei? Ma la vedo come la vedevo all'inizio di questa vicenda. Cancellieri avrebbe dovuto fare il passo che Cooper lo si augura faccia oggi, già 15 giorni fa, quando questa storia è incominciata. Segnalo che, insomma, il conflitto di interessi dal punto di vista delle relazioni sociali, degli amici, è conclamato in questo caso e non c'è molto altro da aggiungere. Mi dispiace che si sia, ci siamo trovati di fronte a una decisione drammatica, però forse Cancellieri potrebbe anticiparla, come hanno chiesto ormai quasi tutti, perché Renzi si è espresso nello stesso modo, Cooper lo dice così, io da tempo lo sostengo, quindi mi auguro che ci sia un'assunzione di responsabilità anche da parte del governo e del Presidente del Consiglio, insomma, un confronto sereno ma determinato. Se si dovesse arrivare al voto sulla fiducia alla Cancellieri, lei voterebbe la sfiducia o si atterrebbe ad eventuali indicazioni del gruppo nel caso che queste fossero contrarie? Beh, le ripeto, io spero che il gruppo del PD ne discuta, ci si confronti e che il gruppo del PD inviti a una soluzione che non ci porti al voto in aula, ma che anticipi questo voto con una soluzione più rigorosa, diciamo così. Votare una mozione di sfiducia dell'opposizione è sempre una cosa dura, bisogna piuttosto che tutto il Partito Democratico, tutto il suo gruppo dirigente abbia una posizione coerente con le cose che stiamo dicendo da sempre. Noi abbiamo chiesto, comunque ha ricevuto le dimissioni di Josefa Idem per un episodio che riguardava la sua vita personale, mi pare che in questo caso si tratti di qualcosa di molto più significativo e di più grave. Civati, allora è una domanda che io le devo fare, mi può rispondere con un no comment, perché insomma capisco che la roba è uscita stamattina, lei è in giro, magari non ha letto nemmeno le cose della vicenda di Vendola, vuol parlare? Ma guardi, non ho molti elementi, se non un grande dispiacere. Stimo Nichi Vendola e questo episodio è un episodio molto brutto, penso che anche lui la pensi nello stesso modo, non c'è molto da aggiungere. Questa vicenda di Taranto è un incubo per i tarantini, ma anche per la politica italiana, e dobbiamo avere parole diverse. Grazie Pippo Civati per essere stato con noi. Noi adesso passiamo proprio a parlare della vicenda di Taranto. Lo facciamo innanzitutto riascoltando un po' più compiutamente questa intercettazione che è stata diffusa oggi e che riguarda una telefonata tra Nichi Vendola e Archinal, ex responsabile delle relazioni istituzionali dell'ILVA, adesso in carcere, una telefonata da dire però che risale al 2009. Comunque, sentiamone un breve estratto. Sono molto colpito da una scena che ho appena visto ora, i miei amici mi hanno fatto vedere a Roma una conferenza stampa, un'immagine, una splendido scatto felino. Non potevo riprendermi ora perché ho visto una scena fantastica. Con il mio capo di gabinetto siamo rimasti molto colpiti e siccome ho capito qual è la situazione volevo dire che mettiamo subito in agenda un incontro con l'ingegnere. No, state tranquilli, non è che mi sono scordato. No, assolutamente non so sicuro. Come fare, perché no, ho paura che metto la faccia mia e si possono accendere ancora di più i fuochi. No, ero sicuro, soltanto che sta degenerando, veramente sta degenerando per colpe. Così dunque una parte, diciamo, di questa intercettazione. Tra le altre cose Vendola dice: faccia sapere ai Riva che non mi sono defilato. Allora saluto Ipazio Stefano, che è sindaco di Taranto, benvenuto. Buongiorno. Tra l'altro ha indagato anche lei nell'inchiesta su una cosa, un abuso di ufficio, cioè nel senso una interpretazione, perché io ho fatto un esposto alla magistratura e i magistrati dicono, quando hai fatto l'esposto, hanno avuto, voglio dire, delle persone che hanno fatto a loro volta degli esposti contro di me, dicendo quando ha fatto l'esposto per indagare sull'inquinamento eccetera eccetera, lui conosceva già questa situazione, quindi avrebbe dovuto chiudere, invece come lei ben sa non avevo queste possibilità, questa... e in ogni caso non avevo gli elementi che sono stati raccolti dopo. Okay. Io quindi mi sono rivolto alla magistratura per conoscere. Benissimo, questa è la sua linea di difesa. A me interessa capire invece, secondo lei, Vendola, anche alla luce di questa telefonata, si dovrebbe dimettere oppure no? Guardi, io sono addolorato dall'interpretazione che può essere sembrare di complicità della telefonata, ma io la interpreto più come una non simpatia nei confronti del giornalista e della scena, diciamo che quando il signor Archinà ha tolto il microfono al giornalista, quindi la interpreto in questa maniera. Poi se i magistrati non hanno agito in merito a questa intercettazione, io non sono un magistrato, la mia professione sì, io faccio però sa che in questi casi, mi scusi Stefano, si prescinde anche un po' dalle questioni della rilevanza penale o meno, no? Ci sono questioni di opportunità politica. Certamente sì, però in questa occasione, ripeto, io interpreto più come una antipatia, tra virgolette, nei confronti del giornalista, e quindi interpretando questo si rideva della scena quando gli avevano tolto il microfono, quindi io personalmente non riesco a vedere in questo un dolo. Ecco, però si nota un rapporto buono con Archinà. Questo sì, dalla intercettazione, però sa, quando uno lavora con una persona dopo anni, alla fine il tono, una cosa è il tono di cordialità e l'altra cosa sono poi i fatti che seguono alla cordialità. Uno per strada può incontrare una persona che vede tutti i giorni, sorride, saluta, però non vuol dire che ha niente a che fare con questa persona. E nemmeno il faccia sapere ai Riva che non mi sono defilato, lei lo interpreta? E guardi, io non conosco di che cosa stessero parlando, sinceramente, quindi vuol dire non posso interpretare e diventare giudice su una frase, questo non lo posso assolutamente fare, perché non conosco qual è l'argomento e non so di che cosa si fosse dimenticato o non dimenticato, quindi per onestà intellettuale non mi sento di esprimere un giudizio. Ma non ritiene, e qua chiudiamo, veramente, sempre sul tema dell'opportunità politica, no? C'è sempre questa sensazione di un'estrema vicinanza della politica nei confronti di determinati settori dell'economia con rapporti a volte poco chiari. Non teme che basti anche la sensazione in questo caso, in un paese come il nostro, strutturato come il nostro, per poi trarre le necessarie conseguenze? Sì, voglio dire, molte volte si possono avere delle opinioni però sbagliate, nel senso che uno non può giudicare per una sensazione, bisogna giudicare dai fatti. Io so che il presidente Vendola ha imposto la legge per l'impianto dell'urea, per abbassare la diossina, so che ha imposto una legge per la prima volta in Italia, tra le altre cose, so che ha imposto l'impianto di depolverizzazione, so che hanno fatto quella legge sul danno sanitario. Quindi voglio dire, uno può anche scherzare e ridere, può anche andare sotto braccio, però i fatti sono diversi. Grazie Ipazio Stefano, sindaco di Taranto, buona giornata. Fermiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, come sempre di venerdì ci sarà l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Appena battuta dalle agenzie, notizia che riguarda l'Italia, Aeroflot non ha intenzione di acquistare l'azienda né parteciperà in alcun modo al suo finanziamento, smettendo quindi indiscrezioni dei giorni scorsi. Bruxelles molto dura sulla legge di stabilità, secondo la Commissione rischiamo di sforare, non ci sono margini per gli investimenti. Palazzo Chigi replica, non c'è nessuna bocciatura da parte dell'Europa. Intercettazione di Vendola con Archinà, ex responsabile relazioni istituzionali dell'Ilva, ora gli arresti, faccia sapere ai Riva che non mi sono defilato, dice il presidente pugliese. Il ministro Cancellieri torna nell'occhio del ciclone dopo la diffusione di nuovi tabulati, Cooper lo valuti con Letta se andare avanti. Tohir approda a Milano, è il nuovo presidente dell'Inter, Massimo Moratti sarà il presidente onorario, sempre per il calcio questa sera, l'amichevole Italia-Germania. Adesso è il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, dedicata questo venerdì a un giornalista sotto scorta. Di giornalisti e scrittori sotto scorta in Italia purtroppo ce ne sono molti, troppi. Hanno la protezione Roberto Saviano per il suo libro Gomorra sul clan dei Casalesi, Giovanni Tiziana per le sue inchieste sulle mafie in Emilia-Romagna e decine di colleghi conosciuti e sconosciuti, gente che ha soltanto fatto bene il suo lavoro. Cioè hanno semplicemente consumato le scarpe, sono andati a trovare le notizie esattamente dove stanno le notizie, nulla di più. Lirio Abbate, un giornalista del settimanale Espresso, viene da Palermo, dove ha lavorato all'Ansa per molti anni. La mafia già a Palermo lo aveva minacciato. Sotto scorta dal 2007 si è trasferito da alcuni anni a Roma, dove ha incrociato un'altra mafia, quella che fa affari nella capitale. Facevano nomi e cognomi di personaggi che comandano all'interno del grande raccordo anulare di Roma, quei capi che non sono tantissimi, che sono una via di mezzo fra la Camorra, l'Andrangheta e certa mafia nuova che a Roma si confondeva in passato con l'ex banda della Magliana. Dunque, come avete sentito, una delle inchieste di Lirio Abbate mette al centro i cosiddetti nuovi eredi a Roma, gli eredi della banda della Magliana, organizzazione criminale attiva negli anni 70, ma in realtà mai del tutto sciolta. Sono preoccupato per il fatto che è gente che non ha regole. Sono preoccupato del fatto che gran parte dei romani non si sono accorti di avere in casa la mafia, la criminalità organizzata, di avere accanto persone purtroppo che ancora oggi gestiscono i più grandi affari business che si fanno nella capitale. Sono preoccupato del fatto che forse ho centrato il vero obiettivo, perché se c'è un capo che dà ordine o incarica un albanese di seguirmi e pedinarmi, significa che qualche cosa forse di vero l'ho scritta e allora questo preoccupa. Molti di questi personaggi erano già entrati nelle cronache negli anni 70 e poi anche negli anni 80 e anche negli anni 90. Come mai la magistratura, le forze dell'ordine non sono arrivati ad una verità storica e nemmeno ad una verità penale su molte delle vicende accadute nella capitale? Ma per tante ragioni che adesso stiamo cercando di far venire fuori, almeno giornalisticamente parlando. Una, perché forse non sempre si è cercata una verità su questi fatti. Due, perché queste persone hanno trovato grossi appoggi che non sono i semplici manovali, ma parliamo di salotti romani che frequentati dalla ricca borghesia, ma anche dai professionisti e ma anche da chi porta le toghe, da avvocati e magistrati. E questa ne è la prova del fatto che negli ultimi 6 mesi le prime inchieste che sono state fatte da quando è arrivato il procuratore Pignatone con tutta la sua squadra, ha rivitalizzato alcune indagini, sono stati arrestati avvocati che corrompevano i periti dei tribunali, sono stati arrestati medici che appunto si facevano corrompere, sono stati indagati e arrestati giudici della Corte d'Appello e anche giudici della fallimentare con cui molti personaggi legati alla criminalità organizzata facevano affari. Ecco, si sta mettendo mano a quella che è un sistema che per anni ha dato l'impunità a molti di questi boss, che anche se condannati forse per piccole robe, in carcere non ci finivano quasi mai. Le storie raccontate da Lirio Abbate non sono quelle romanzate sui libri e nemmeno quelle diventate popolari dalle fiction televisive. Sono quelle vere, reali, che si snodano ancora oggi all'interno del grande raccordo anulare. Sono storie di Roma. Così dunque l'inchiesta del venerdì del nostro Daniele Biacchessi. Noi come sempre a quest'ora ci occupiamo di legge elettorale. Il 3 dicembre dovrebbe arrivare, come sapete, la sentenza della Corte Costituzionale, dovrebbe essere cambiata questa legge elettorale. C'è chi sta protestando con uno sciopero della fame da oltre 40 giorni, si tratta di Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, ha perso una decina di chili. Con lui ogni giorno qualcuno fa una sorta di staffetta, una giornata di digiuno, di solidarietà, per cambiare, eliminare il porcellum. Chi abbiamo in linea oggi?